Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Lunedì sera sono andato apposta sui canali satellitari a vedere un telegiornale cinese e mi sono accorto dalle immagini, Chiara, che la seconda notizia era quella della condanna dei sei geologi scienziati. Non ha forse più bisogno di essere introdotta perché ha fatto tre volte il giro del mondo. Va bene, adesso partiamo con i titoli e poi affronteremo questo tema anche qui a Möbius. Alla luce della sentenza sul terremoto dell'Aquila, proviamo a capire cosa potrebbe accadere in molte altre e diverse situazioni, nelle quali entrano in gioco le affermazioni degli scienziati. C'è un nuovo approccio per comprendere il processo alla base del cancro. La moltiplicazione cellulare non sarebbe al centro della malattia. Domanda sull'evoluzione ci arriva da Daniele di Livorno. Perché la nostra è l'unica specie di Homo sopravvissuta sulla Terra? Forse l'Homo sapiens ha sterminato tutti gli altri? Allora, non so cos'altro ci sia da aggiungere dal punto di vista della cronaca, forse no. Nulla, perché si è detto praticamente tutto. O perlomeno arriveranno altre cose, altri particolari, ma diciamo questo non è il nostro compito più diretto. Qualcosa sugli eventi però, diciamo, io direi però, presentiamo i nostri ospiti che abbiamo questa sera. Allora, Stefano Gresta, buonasera Gresta. Buonasera a voi. Presidente degli NGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è certamente pesantemente colpito da questi fatti. E poi abbiamo anche Amedeo Santosuosso. Buonasera Santosuosso. Buonasera. Magistrato e soprattutto, per quanto riguarda le cose che stiamo per discutere, presidente del Centro Ricerche Interdipartimentale su Diritto, Scienza e Nuove Tecnologie, basato a Pavia. Devo dire, lo dico io, insomma, che questo centro di ricerca, e quindi con la sua attività, beh, insomma, siete un po' gli unici che in Italia ragionano su tutti i rapporti fra ciò che è attività di ricerca, scienza, commenti anche che vengono fatti intorno alla scienza e riflessi di tipo legale, insomma. Però direi, incominciamo da Stefano Gresta. Presidente, sì. Vogliamo dedicare soltanto poco, pochissimo agli aspetti più tecnici, legali della vicenda, perché siete usciti con un comunicato molto netto, molto preciso, in merito a un aspetto particolare di tutta questa storia, che è forse quello di cui si discute di più, ed è questa benedetta conferenza stampa che ci sarebbe stata dopo la riunione della Commissione Grandi Rischi, presieduta da Bernardo Bernardinis, che allora era il presidente della Commissione Grandi Rischi. Però abbiamo anche avuto, e c'è in circolazione su tutti i media, un'intervista. Sì, lui stesso l'ha ammesso l'altro ieri al TG3, ai microfoni TG3 con la Berlinguer, appunto, dove dice che ha rilasciato però un'intervista precedente la riunione, nonostante insomma non si fosse ancora parlato con gli scienziati, però lui dice che aveva delle motivazioni scientifiche, cioè aveva parlato con gli scienziati, gli era stato diramato un comunicato e quindi stampa. Si è creato questo equivoco per cui la dichiarazione di Bernardinis, che tra l'altro è andata in onda dopo questa riunione della Commissione Grandi Rischi, sembrava fosse la sintesi, diciamo, di quella riunione. Direi forse che è il caso di sentire De Bernardinis al microfono appunto della Berlinguer nel TG3 del 23 ottobre, in cui appunto parla anche di un rilascio di energia. Qui la cosa è molto importante perché è una nozione scientifica abbastanza scorretta dal punto di vista sia della comunicazione che proprio tecnico. E io dissi la comunità scientifica continua a confermare che la situazione mi è favorevole. Conferma che la situazione quindi è favorevole, perciò uno scarico di energia, perciò non abbiamo avuto eventi intensi, abbiamo avuto eventi intensi non intensissimi, perciò non abbiamo avuto molti danni. Quell'intervista fu fatta prima della riunione, il dibattimento l'ha chiarito. Però la comunità scientifica gliel'aveva detto. Ma me l'aveva detto precedentemente alla riunione, non era però la riunione. Però è proprio il 31 marzo quell'intervista. Ma prima della riunione, prima della esattamente riunione. Alle 17.30. Ecco, questo, ma è stato un errore rassicurare la popolazione? Ma io lì non ho rassicurato nessuno, tant'è vero che lo stesso pubblico ministero Picuti, questo nella sua requisitoria l'ha sottolineato più volte, è stato appurato dal dibattimento e credo che questo sia uno dei punti principali. Stefano Gresta, allora, Che cosa ci dice rispetto a questa combinata, insomma, la dichiarazione di Bernardinis, la riunione della Commissione Grandi Rischi e il vostro comunicato? La cosa fondamentale è che c'è stato evidentemente un grosso equivoco a livello di comunicazione in quella circostanza. Il fatto che, come dice De Bernardinis, vengano fatte delle dichiarazioni prima di una riunione della Commissione Grandi Rischi, vengono fatte sulla base di rapporti che sono stati rapporti di tipo precedente, spediti alla Protezione Civile. Il fatto che una riunione della Commissione Grandi Rischi per la prima ed unica volta sia stata tenuta a porte aperte, alla presenza della stampa, alla presenza dei cittadini, alla presenza degli amministratori. Il problema è stato un problema sostanzialmente di comunicazione e di serenità nella comunicazione. Questa è la vostra posizione allora? La nostra posizione è che gli scienziati fanno un lavoro importante, delicato. Se si occupano di scienze della Terra, la sismologia non è l'astronomia che obbedisce a delle leggi esatte per cui si può predire un'eclissi con anni e anni di anticipo. No, però Presidente, il De Bernardinis parla di rilascio di energia. Noi sappiamo che nella zona dell'Aquila questo diciamo può accadere nella faglia di Sant'Andreas, ma nella zona abruzzese, diciamo, questa è, cosa è un sul, dato sul rilascio dell'energia voi l'avete smentita. Ma allora perché nessuno dopo queste dichiarazioni ha detto no, ragazzi, non è così? Bisogna fare attenzione, sì, al significato delle cose. Allora, nella zona dell'Aquila era in atto una sequenza sismica. Alcune dichiarazioni improvvide dicevano che se c'erano 100 terremoti, esatto, di una certa magnitudo, questo scongiurava in qualche modo il pericolo di un grande terremoto. E lei fa riferimento all'intercettazione di Bertolaso? Anche in altri ambienti si diceva più terremoti piccoli ci sono e meno probabilità c'è che ce ne sia uno grande. Ecco. Questo non è vero. È un'informazione che se me lo dice uno studente ad un esame di sismologia compromette il suo esame. Lei lo boccia. E perché nessuno però è intervenuto a smentire questa cosa? Ma poi bisognerebbe ricostruire come si sono svolti i fatti. Io non credo che nessuno sia mai intervenuto a smentire questa cosa, perché la telefonata di Bertolaso è stata resa pubblica tempo dopo. È una cosa di una banalità talmente grande che, ripeto, non so dove può essere uscita fuori. Certamente non è uscita fuori dai comunicati ufficiali del nostro istituto. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Continuiamo a parlare della condanna, della sentenza a 6 anni che ha colpito 6 scienziati in merito alla vicenda dell'Aquila. Abbiamo ospite Stefano Gresta, presidente dell'INGV, e Amedeo Santosuoso, magistrato che si interessa in modo particolare di questo tipo di temi. Santosuoso, vorremmo avere subito una sua prima opinione rispetto a questo problema, appunto, delle dichiarazioni e della loro parzialità o della loro superficialità, insomma. Io non conosco gli atti del giudizio, però da quello che ho sentito va detto che in termini generali gli scienziati devono essere liberi di esprimere le loro opinioni. Io dico sempre agli amici scienziati: guardate che voi siete sotto protezione costituzionale, avete ben 2 articoli della Costituzione che proteggono la vostra libertà. Ecco, questa è la base di tutto, però nello stesso tempo bisogna tener conto che vi sono differenze di contesto. Un conto è lo scienziato in laboratorio, un conto è lo scienziato nella comunicazione all'interno della comunità scientifica, un conto è quando fa un programma divulgativo, per esempio in televisione, un altro conto è quando opera all'interno di una struttura che svolge delle funzioni di consulenza per le decisioni pubbliche. Qui il problema è che l'informazione degli scienziati, che rimane un'informazione di tipo scientifico con le caratteristiche che ha, deve poi essere filtrata dai politici, cioè le conseguenze operative che poi si traducevano nel caso concreto, evacuare o non evacuare o consigliare di dormire fuori casa o di dormire fuori casa, queste conseguenze non le potevano trarre degli scienziati. Ora io non sono in grado di dire se quella comunicazione è stata perfetta, imperfetta, fuorviante, è anche possibile, non lo so. Però la responsabilità per la conseguenza, lo scienziato può essere responsabile di una comunicazione non del tutto chiara, adeguata, corretta, sì, ma solo su questo piano, ma le decisioni operative non spettano per definizione agli scienziati a spiegare che Dormire fuori casa può dire dormire fuori casa un giorno, una notte, una settimana, un mese. Queste cose qui non è compito degli scienziati. Un'affermazione che in ambito scientifico è perfettamente comprensibile. Dice, di questa cosa non abbiamo la prova, però non abbiamo neanche la prova del contrario. E nel momento in cui la si comunica, la si mette in presa diretta con una popolazione giustamente allarmata, e può produrre delle confusioni notevolissime. E allora lì il compito del politico che si avvale della consulenza di un organismo scientifico sta proprio nel porre anche agli scienziati le domande più stringenti, più nei limiti del possibile, e poi mediare con la popolazione e trovare le soluzioni operative che comunque, questo vale per tutto, non escludono per definizione qualsiasi rischio. Infatti in questo contesto ci andiamo a interrogare su che cosa succederà adesso. Vorrevo farvi sentire entrambi, poi vi chiederemo i vostri punti di vista. Maiani, che è intervenuto al microfono di Oscar Giannino un paio di giorni fa, appunto ci racconta la sua preoccupazione da adesso in poi. Sì, gli scienziati si devono trovare ogni volta di fronte a un giudice che applica, come dice lei, il principio della magistratura. Il risultato sarà la fuga degli scienziati dalla consulenza verso lo Stato, e sarà un impoverimento totale delle capacità dello Stato. Cioè, noi siamo delle persone che oggi dovremmo lavorare con il rischio che la nostra opinione sul terremoto dell'Emilia o sullo sciame sismico in corso nel Pollino ci porta poi davanti a un magistrato. Lui era Maiani, il presidente appena dimissionario, insomma, della Commissione Grandi Rischi, esatto. Certo. Adesso noi cercheremo con Amedeo Santosuosso di fare alcune simulazioni. Le chiedo solo brevemente, Greste, immagino che lei sia piuttosto d'accordo con questa dichiarazione di Maiani, non direte più niente. Il problema non è non dire più niente, il problema è dirlo con delle regole chiare. Cioè, se si fa parte di una commissione, che è una commissione di consulenza, quindi che esprime pareri per la protezione civile, questi pareri, secondo me, debbono essere riservati, perché possono essere anche pareri non condivisi da tutto il resto della commissione, ci possono essere opinioni discordanti, si può arrivare ad un verbale per cui si trasmette quelle che sono il livello delle conoscenze scientifiche, e poi purtroppo è un onere per chi invece è il decisore, che deve prendere delle decisioni, ma ha un ruolo ben distinto da chi ha fatto del proprio meglio nell'analisi di dati di tipo scientifico. Sono due ruoli completamente diversi. Completamente diversi. Quindi certo. Con delle regole certo sarebbe diverso. Santosuosso, prima di questa trasmissione ci siamo un po' sentiti, lei mi faceva un esempio particolarmente efficace in ambito ospedaliero, perché il tema adesso è vedere che tipo di riflessi si possono avere in generale sugli importanti commenti, opinioni che possono arrivare dal mondo scientifico quando succedono delle cose. Me lo rifà? Sì, allora l'esempio che io facevo era quello del rischio post-operatorio. Dopo qualsiasi tipo di intervento vi è una certa percentuale di rischio che varia a seconda di varie circostanze, e per i casi più gravi normalmente viene riservato il ricovero in rianimazione nel post-operatorio, ma se si volesse azzerare questo rischio bisognerebbe ampliare enormemente, se non estendere a tutti i post-operati, il ricovero e rianimazione. Ora, se si prendono dei dati strettamente medici, clinici, noi possiamo raggruppare i pazienti per categorie di rischio che sono espressi in diverse percentuali, ma poi la decisione di quanti posti letto per 1000 interventi, diciamo, che si fanno in un ospedale, quanti posti letto di rianimazione sono necessari, questa non è una decisione che deve prendere il medico. Cioè, il medico, lo scienziato, lo studioso fornirà dei dati, ma poi il rischio di non avere il posto letto per il paziente più uno rispetto alla disponibilità di posti letto, quello è un rischio che va preso a livello di scelte di politica sanitaria. Certo. Sì, e quello che io dico però è anche che il rapporto a quel punto del medico, per esempio, con i parenti, col paziente, si irrigidisce tremendamente, perché questo medico si sentirà semplicemente chiamato a dare delle statistiche, a salutare tutto e dire decidete voi, io non c'entro niente. No, ma il problema non è quello di dire no, io vi do le statistiche e poi decidete voi. E il problema è che vanno creati degli ambiti di comunicazione tra diverse competenze, certo, dove metterle insieme non significa che tutti rispondono per le stesse cose alla stessa maniera. Allora, anche dell'esperienza dell'Aquila, probabilmente lì c'è un problema, che gli scienziati hanno ragione a essere impauriti, chiunque lo sarebbe da una condanna di questo genere, ma bisogna imparare anche non solo a essere bravi scienziati, ma anche a comunicare nei contesti propri in un modo diverso. E d'altra parte anche la popolazione deve essere abituata ad accettare certi livelli di rischio, a fare delle scelte in condizioni di conoscenze limitate, anche perché poi la questione fondamentale, la parola rischio copre tantissime cose. Cioè, un conto è il rischio quando si parla di una serie causale ben individuata, già avviata, di cui si conoscono gli sviluppi, come può essere per esempio anche un uragano, e un altro discorso è il rischio rispetto a fenomeni come quelli sismici che hanno le caratteristiche che hanno. E allora la parola è così, come anche diverso ancora il rischio se io entro in un'autostrada con una nebbia a visibilità 20 metri. Però tutto questo, il problema è che tutto questo non è di fatto, diciamocelo, facilmente percepito dal pubblico medio, e allora la combinata tra questa sentenza e questa mancanza di conoscenza può essere micidiale. A me veniva in mente un altro caso, la nave del Giglio, che era lì e nel giro di poche ore avrebbe potuto crollare e scivolare. Hanno chiesto a degli scienziati, tra l'altro credo anche degli NGV, che cosa si poteva fare, cosa si poteva prevedere. Io credo che se questo avvenisse fra 2 mesi probabilmente tutti direbbero: non sappiamo niente, non vogliamo averne niente a che fare. Creare. Sì, forse come dice Gresta, se ci fossero delle regole, delle distinzioni di ruoli, allora a quel punto certo, uno si sentirebbe. Ma dobbiamo più costruirle, no? Gresta e Santo Giorgio, il problema è questo. È un problema di distinzione dei ruoli. Partendo appunto, gli scienziati in quanto scienziati sono sotto la protezione degli articoli 9 e 33 della Costituzione, i politici hanno altri doveri e diritti, però bisogna costruire le distinzioni, ma poi bisogna stabilire le vie di comunicazione giuste. Gresta. Sì, infatti il nostro non è stato e non vuole essere un commento alla sentenza, anche perché non ne conosciamo le motivazioni, vuole essere però una richiesta, come si diceva, di regole chiare. Perché? Proprio perché noi scienziati, nelle nostre discipline, non possiamo dare certezze. Quello che diamo sono, al meglio, delle interpretazioni, però si sta spostando, secondo me, l'obiettivo sulla scienza rispetto al fattore principale, cioè che è la prevenzione. Cioè, per terremoto si muore perché crollano gli edifici. Certo. E quindi il problema, sì, magari in una società più avanzata si sarebbe potuto trovare un modo migliore per comunicare da parte di chi deve prendere delle decisioni, ma il problema principale, caso di rischio sismico, è quello che in un paese civile un terremoto di magnitudo circa 6 non fa crollare gli edifici. Il problema passa attraverso la prevenzione, significa che occorre mettere in sicurezza il patrimonio edilizio pubblico e privato. E qui purtroppo, credo che i nostri interlocutori siano d'accordo, quello che avviene sempre, troppo spesso in Italia, è che si incomincia a discutere tutte queste cose importanti quando i buoi sono scappati dalle stalle, e quindi è il momento peggiore per farlo. Grazie Amedeo Santosuoso e grazie Stefano Gresta. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Credo che se c'è un'immagine che riguarda la scienza, in questo caso la medicina, che è veramente diffusa fra tutti noi cittadini e cittadine, e che riguarda il tumore, il cancro, è che esso si definisce come la proliferazione incontrollata di cellule, e questo è il centro del fenomeno. Ebbene, sta per arrivare in Italia un personaggio molto importante della ricerca in questo campo, che è Carlos Sonnenschein della Tufts University di Boston, per una serie di convegni che sono promossi dalla Fondazione Sigma Tau, che è anche sponsor della nostra trasmissione. Alessandro Giuliani, buonasera Giuliani. Buonasera. Dell'Istituto Superiore di Sanità, è un po' il chairman di questi incontri, e quindi la usiamo, Giuliani, per descrivere questa, questo scenario diverso che Sonnenschein sta proponendo a tutta la ricerca in oncologia e che, a partire da una sua notevole autorevolezza, comincia a ottenere un certo interesse. Forse non tutto l'interesse che dovrebbe avere, è uno scenario, per quanto stiamo parlando di una cosa alquanto sgradevole, che però è molto suggestivo nel descrivere altre modalità di comportamento del corpo e delle cellule, no? Provi un po' a spiegarci. Beh, dunque, in realtà sgombriamo subito il campo agli equivoci. È chiaro che la proliferazione cellulare incontrollata c'è. Certo. Il punto è chi è la causa di questa proliferazione, esatto, cellulare incontrollata, cioè se esista una cellula tumorale identificata come tale. Non a caso uno degli articoli di Carlo Sonnenschein ultimi si intitolava The Death of Cancer Cells, cioè che non esiste una cellula tumorale in quanto tale. Oppure invece la causa, il nesso causale più rilevante di questo fenomeno sia invece da cercarsi a livello dei tessuti. È un po' come quando uno dice di chi è la colpa del traffico. Certo che la colpa del traffico è la colpa delle macchine, ma non certo della singola macchina, ma delle interazioni fra tante automobili. Ecco. Cioè il sistema, no? Lei fa questo esempio del traffico che mi sembra funzioni molto bene. Il sistema traffico che è fatto dalle automobili, dalle strade, dagli orari, no? C'è una complessità estremamente ampia, è questo che a un certo momento determina. Poi è chiaro che gli interpreti sono le automobili, ma la singola automobile che è dotata, come dire, di una sua capacità di creare l'ingorgo, è questo che è sbagliato, no? E quindi qual è? Che le singole cellule tumorali sono piuttosto facili da uccidere, tant'è vero che svariati trattamenti come la chemioterapia o i raggi X provocano immediatamente una grossa riduzione delle masse tumorali, proprio perché le cellule tumorali non sono particolarmente vitali. Quindi cosa lei succede? Dice qui se eliminiamo le macchine il traffico dovrebbe essere finito. Assolutamente. Però che cosa succede? Che cosa succede? Che in realtà se c'è una zona, rimaniamo in questa metafora del traffico che è interessante, che è molto favorita alle congestioni, al blocco del traffico, prima o poi ci andranno a finire altre macchine. In altre parole, le cellule che ancora non sono tumorali, cioè che fanno parte del tessuto sano, se in quella zona esistono delle influenze ormonali, di relazioni fisiche delle strutture di collagene o comunque di come sono organizzate spazialmente le cellule, comunque in generale di microambiente chimico-fisico, altre cellule inizialmente sane si trasformeranno e diventeranno parte del tumore. Quindi il punto qual è? Il punto è che il contesto, cioè l'interazione tra cellule del tessuto e lo stroma, che poi sarebbe ciò che nutre il tessuto, sono più importanti delle singoli eventi all'interno di singola cellula. Non a caso Carlo Sonnenschein parte dallo studio del sistema neuroendocrino, cioè questi mediatori ormonali che provocano, possono provocare il tumore con meccanismi che sono appunto a livello di organizzazione del microambiente, cioè del generale del tessuto e non della singola cellula. Quindi quello che avverrebbe, secondo questa ipotesi, è che a un certo momento, in una zona qualunque, purtroppo sappiamo che può essere davvero qualunque, certo, del corpo, viene a crearsi, potremmo chiamare una specie di microclima dal punto di vista biologico, cioè un contesto che è quello a generare le condizioni per cui le cellule impazziscono. Però allora vuol dire che dobbiamo agire su questi contesti. Esattamente, che è una cosa molto più difficile che andare a pizzicare il singolo ricettore sulla singola cellula. In realtà gran parte, se non tutta, la nostra farmacologia si è sviluppata ed ha avuto anche grandi successi nell'individuare il singolo agente causale con cui andare a interferire per sistemare un po' tutto il fenomeno. Siamo molto meno capaci di andare a modulare una cosa come un microambiente. Però abbiamo delle indicazioni su questo, ad esempio dei campi morfogenetici anche molto semplici, come l'uovo di gallina, che non a caso ha tutto il necessario per far avvenire lo sviluppo embrionale fino ad arrivare a un pulcino, quando messi in coltura cellulare riescono a indurre il differenziamento di cellule trasformate. Chiaramente stiamo parlando di cose completamente diverse, perché in vivo non lo sapremo fare. Però il fatto che le cellule trasformate possono ritornare a essere differenziate con un intervento di un campo da fuori è molto interessante. Non a caso Nobel, che è stato dato ultimo della medicina, Yamanaka, è stato dato per qualcosa di molto simile nell'ambito delle cellule spinali. È vero, certo. Lì si trattava di portare indietro una situazione iniziale cellule che avevano preso una strada perché indirizzate da un campo morfogenetico. Lì, con un campo morfogenetico, si è tornati dall'altra parte. Quindi l'idea di non di uccidere le cellule tumorali, ma di farle revertire verso una crescita di tipo normale è un po' il nuovo paradigma. Chiaramente non è per domani, nel senso che accettare questo nuovo paradigma implicherebbe una riconversione di lungo periodo di tutta quanta la ricerca, che chiaramente ha delle opposizioni, insomma. Certo, certo. Però, insomma, in conclusione, quello che si potrebbe scoprire è che la cellula, come dire, è disponibile a fare tante cose diverse, come l'automobile può essere tranquillamente usata per andare un po' in campagna in una strada deserta, però poi dopo improvvisamente messa nel traffico può essere disponibile a creare un grande ingorgo. Assolutamente. Questa sì, è la non cosa. Solo, ma che poi che le cellule quello che fanno dipende anche dalla popolazione in cui sono inserite, che è un po' poi quello che succede anche da noi. Bene Giuliani, allora adesso però vorrei fare due chiacchiere con Massimo Picari, che è il direttore della Fondazione Sigma Tau. Vuoi parlare un po' di queste conferenze e anche in particolare di questa di Carlo Sonnenschein? Grazie Giuliani. Arrivederci. Eccoci qua allora, buonasera Picari. Buonasera a lei. Allora, intanto ricordo che la conferenza di Carlo Sonnenschein è a Roma il 29 ottobre alle ore 11 al Centro Congresso dell'Istituto dei Tumori in via Chianesi e poi il giorno dopo a Bari il 30 ottobre all'aula del Centro Polifunzionale del Policlinico di Bari, ma lì siamo alle ore 17. Però basta andare al sito della Fondazione Sigma Tau, www.fondazionesigmatau.it, e si troveranno tutte le indicazioni. Picari, mi sembra che da questo tipo di appuntamenti che voi state realizzando, ce ne sarà anche un altro di cui parleremo più avanti, cercate di dare questa visione molto ampia, molto articolata di quella che è la nuova frontiera della ricerca in campo biomedico. Direi che quello che cerchiamo di fare è dare una visione della realtà. La realtà è indubbiamente molto più complessa di quello che noi siamo costretti in qualche modo. Desidereremmo. Desidereremmo, comunque in qualche modo siamo costretti a fare quando dobbiamo interagire con essa. Vabbè, che si aprirebbe tutta una serie di discorsi sui nostri automatismi e quant'altro. Comunque è una realtà complessa, come tutte le realtà biologiche, soprattutto in campo medico. Quello che noi cerchiamo di fare è di ritornare a questa realtà complessa, che tra l'altro nel caso del medico esprime anche una sorta di paradosso. Chi ha fatto il medico lo sa, io ho fatto il medico a suo tempo, e quindi alla fine di fronte ad un paziente, di fronte alla nostra realtà biologica, che ricordo è sempre diversa, una persona dall'altra, non esistono i malati, esistono i pazienti, esistono i malati, questa è una cosa che il medico non deve mai dimenticare. E il medico deve alla fine di questa considerazione quanto mai complessa e quanto mai articolata arrivare però ad un punto di sintesi, che è quello della diagnosi e della terapia. Quindi il medico è in qualche modo costretto quasi a fare la spola tra ragionamento complesso e questo discorso di estremo riduzionismo. Quello che si può sperare però è appunto che, riuscendo ad avere una visione più complessa, più articolata, certamente più difficile, poi a un certo momento questa contraddizione a cui lei alludeva del medico, del singolo che deve dare una terapia, beh, magari da una visione più ampia viene fuori anche una terapia più efficace e migliore. Come fondazione siete impegnati in questo periodo a dare un po' questi scenari di grande cambiamento? Direi assolutamente di sì, perché da qui alla fine dell'anno abbiamo in programma altre 3 o 4 lectures di grandissimo valore, di grande vaglio, con esponenti sempre internazionali in varie città d'Italia, alcune delle quali le renderemo disponibili su internet in streaming, come è il caso di questa di Sonnenschein. Quindi c'è un programma molto denso e molto intenso per quanto ci riguarda. Beh, il nostro motto in qualche modo è anche quello di riconoscere la complessità. Il ciclo di letture peraltro si chiama Letture sulla medicina della complessità, che esattamente va in questo senso. Grazie Picari e buon lavoro. Grazie altrettanto. Arrivederci. Chiara, Alberto adesso vi raccontano che... Beh, ascoltate. Alberto, senti qua. Mamma mia, ma cos'è questo suono? È veramente insopportabile. Te ne faccio sentire un altro. No, ma è tremendo. Ma... No, infatti adesso gli ascoltatori cambiano canale. No, allora ti faccio sentire questi e mi limito qua. In realtà sarebbero 73 o 74, ma li limito. Insomma, te li faccio sentire perché Tim Griffiths dell'Università di Newcastle e il suo team di ricerca hanno studiato la reazione, proprio quella che hai avuto tu, ai suoni fastidiosi. Cioè, quando si ascoltano suoni sgradevoli, aumenta decisamente l'attività dell'amigdala, che è la zona appunto del cervello responsabile della gestione delle emozioni. E l'hanno scoperto attraverso la tecnica della risonanza magnetica funzionale. Hanno visto che l'interazione tra l'amigdala e la corteccia uditiva varia direttamente in relazione al grado di insopportabilità, diciamo al fastidio provocato dai suoni che hanno fatto ascoltare a 13 volontari. Come 13? Solo 13? E beh, insomma, trovali tu dei volontari che si sottopongano a questa tortura. No, in effetti hai ragione, ma insomma, l'amigdala fa sì che noi associamo una sensazione negativa a certi suoni più che ad altri. In effetti i fastidi non sono uguali. Il fastidio non è quindi dell'orecchio, ma è proprio del cervello. Eh sì, ed è una reazione molto primitiva, dichiarano loro. È una sorta di segnale di pericolo che l'amigdala lancia appunto quando sente questi suoni. E si è scoperto che sono fastidiosi tutti i suoni che sono compresi in una frequenza tra i 2000 e i 5000 Hz, che poi è l'intervallo di frequenza al quale il nostro orecchio è più sensibile. Che sono quei rumori che abbiamo sentito in apertura e che sono quelli che hanno fatto sentire i ricercatori, li hanno messi in ordine. Quindi il più fastidioso risulta quello che ti ho fatto sentire per primo, che era un coltello su una bottiglia. Poi c'è la forchetta su un bicchiere, in effetti è abbastanza fastidioso, il gesso sulla lavagna, il righello, adesso non so bene questi inglesi cosa abbiano fatto, ma comunque un righello su una bottiglia e poi ovviamente le unghie sulla lavagna. E ovviamente anche le urla femminili, diciamolo. Sì, che in questo momento ti risparmio. Vabbè, ma veniamo ai suoni meno fastidiosi, li hanno classificati, quelli che proprio ci sembrano più piacevoli sono l'acqua che scorre, il temporale, la pioggia e le risate di un bambino. Sarebbe interessante a questo punto capire anche perché certe persone sono più sensibili a certi suoni e non ad altri. Sì, sarebbe bello riuscire a capire perché alcuni percepiscono delle cose assolutamente fastidiose e inascoltabili, altri invece no. Ma comunque approfondiremo nelle prossime puntate. I colleghi giornalisti di Focus in queste settimane hanno un bel po' di problemi. La casa editrice ha deciso di chiudere ben 8 testate, non quella principale, quella che da tempo è nelle edicole con tirature piuttosto consistenti, ma una serie di altre testate satellite, non tutte di scienza, ma molte sì. Trattativi, incontri sono in corso, ma la situazione pare alquanto difficile. Vedremo cosa ne esce. Del resto, le vicende economiche del tutto eccezionali di questi anni hanno colpito pesantemente tutto il settore editoriale, con riduzione di personale e di budget a disposizione. In Italia perdere informazione scientifica è cosa di cui non ci sarebbe proprio bisogno. Una delle testate, per esempio Focus Domande e Risposte, è uno strumento efficace per avvicinare i giovanissimi alla scienza. Che dire, a Grüner und Jahr e Mondadori, è questo il marchio accoppiato italo-tedesco che possiede le riviste, ci sentiamo di suggerire un ripensamento, non solo per ragioni occupazionali, che pure sono tutt'altro che secondarie di questi tempi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In realtà, qui intorno al tavolo, tu, Chiara, potresti, sì, avere una cresta e tre narici. Lui potrebbe, bella, avere delle orecchie molto grandi. E molto Barbuianni, grande, che lo salutiamo addirittura, poi lo presentiamo. Lei potrebbe essere un po' verde e un po' rosa, tipo Star Trek. Tu potresti avere la proboscide, però. Io potrei avere la proboscide arrotolata intorno. Se fosse andata diversamente, come vediamo in Star Trek. Sì, allora, introduciamo sì, il tema. E invece non è così. Torniamo, sì, un po' scherzosi, perché siamo ultimamente monotoni. Siamo un po' seriosi, ecco. Allora, le domande dei nostri ascoltatori: come possono raggiungerci? Ovviamente tramite mail mebius@radio24.it, ovviamente tramite Facebook Moebius Scienza, oppure Twitter Moebius_online. Ecco, quindi scriveteci, oppure mandateci direttamente l'audio. Esatto, come ha fatto Daniele da Livorno, sentiamolo. Ciao amici di Mebius, la mia domanda riguarda l'evoluzione dell'uomo. Non riesco proprio a capire perché la nostra sia l'unica specie di uomo, di Homo, sopravvissuta sulla Terra. Ci sono nell'evoluzione degli esempi straordinari di segregazione come l'Australia, Madagascar, dove si sono sviluppate delle specie animali completamente diverse rispetto a quelle degli altri continenti. È possibile che in queste aree o in altre non sia sopravvissuto nessun ominide. Forse l'Homo sapiens ha sterminato tutti gli altri concorrenti. Però non è che questa soluzione mi torni molto, perché come l'uomo ha sfruttato la gallina, il cavallo e il bue per il proprio tornaconto, a maggior ragione avrebbe potuto sfruttare le caratteristiche manuali, pratiche, cognitive di un'altra specie, magari mantenendole in schiavitù, però senza sterminarla. Esiste una spiegazione a questo? Nostro ascoltatore filosofo, ecco. Bella, la prossima volta Daniele si fermi però con l'auto, perché sente che c'era un po' rumore di fondo. Ecco. Comunque andiamo alla risposta. Con noi al telefono, cioè, l'abbiamo introdotto prima, Guido Barbuiani. Buonasera Barbuiani. Buonasera a voi. Lei è genetista dell'Università di Ferrara, già ospite di Mebius, e presidente dell'Associazione Genetica Italiana. E non è tutto verde? Lei è tutto verde? Non sono tutto verde, ancora no. Volete una risposta? Sì. Beh, mi piacerebbe saperlo, insomma, questa è una di quelle domande a cui onestamente si può rispondere che, per quanto ne sappiamo noi, è andata così. Sul perché sia andata così, su perché siamo rimasti soltanto noi sulla Terra, si possono fare delle ipotesi più o meno plausibili, ma non possiamo avere nessuna certezza. Di fatto abbiamo i dati che ci dimostrano che c'erano tante forme umane diverse, nessuna con la proboscide, nessuna con la pelle verde, ma con scheletri chiaramente diversi dai nostri, e adesso siamo tutti quanti parte della stessa specie, quindi gli altri a un certo punto se ne sono andati. Poi dire se siamo stati noi a eliminarli fisicamente, se sono stati altri fattori nell'ambiente, come sia andata veramente, è molto difficile. Però dei momenti di convivenza ci sono stati. Oh, senz'altro, i momenti di convivenza ci sono stati e sono dimostrati. Sono per esempio il momento in Europa, diciamo tra 40 e 30 mila anni fa, in cui c'era della gente come noi che veniva dall'Africa con uno scheletro come il nostro, un cranio come il nostro, e c'era l'uomo di Neanderthal, e si è visto che in molti casi nell'uomo di Neanderthal compaiono delle novità tecnologiche, si dipingono il corpo, usano decorazioni, addirittura forse seppelliscono i morti, ma questo non è molto chiaro, proprio in seguito al contatto con una popolazione tecnologicamente più evoluta come eravamo noi. Ecco, se posso dire più che altro un'altra cosa sulla domanda del vostro ascoltatore, che è una domanda molto ben articolata: la specie umana non agiva come un tutto unico, non è che fosse un gruppo di persone organizzato che a un certo punto poteva scegliere una strategia nei confronti della gente che incontrava. Poi ridurre in schiavitù gli altri non è uno scherzo, non è facile. Pensate a quando l'Italia era schiava dell'Austria e poi ci sono state le insurrezioni e ci siamo liberati di loro, mentre in altri casi, quando il divario tecnologico era molto forte, e sto pensando a un sacco di popolazioni dell'America del Sud e dell'Australia, si è arrivati alla loro estinzione. Quindi evidentemente, insomma, ci sono dei conflitti, e questi conflitti vanno a finire male per chi è più debole. L'altra parte interessante della domanda di Daniele è quella appunto della speciazione dovuta all'allontanamento geografico, come dire, lui fa l'esempio di alcune isole del Madagascar, quindi sì, delle specie endemiche. È possibile che sia successo qualcosa di simile anche a noi e poi, insomma, ci siamo estinti, o meglio, si sono estinti quelli di quella specie là che era sull'isola? No, è molto probabile che sia andata così. Tutta questa varietà di forme umane che troviamo documentate nei dati fossili, no? Varie forme in Africa che non sono nostri antenati, sono rami laterali dell'albero evolutivo. Queste specie, queste forme, perché chiamarle specie è un po' difficile, no? Bisognerebbe capire esattamente come interagivano con gli altri, ma le possiamo chiamare diverse forme umane. Queste diverse forme umane si sono sviluppate, si sono evolute diversamente dagli altri, perché in qualche modo erano isolate, o su un'isola materialmente o isolate da grandi distanze. E quindi è successo qualcosa del genere. Tra l'altro l'ultima forma umana scoperta, questo uomo di Flores, è appunto una forma insulare che è stata trovata in forma fossile naturalmente in Indonesia e che ha vissuto lì fino ad almeno 18.000 anni fa. Quindi anche nel nostro passato recente, qui stiamo parlando di milioni di anni, nel nostro passato recente, 18.000 anni fa, c'era una forma umana molto particolare localizzata, per quanto ne sappiamo noi, in un'isola, però anche loro non ce l'hanno fatta. Quindi qualche cugino l'avevamo. Ma non verde. Ma non verde. Ma non verde, perché per essere verde ci vuole la clorofilla, e questo è qualcosa che l'evoluzione non ci ha mai regalato. Non ci ha dato. Però abbiamo detto che si dipingevano magari di verde. Di verde non si sa, però ci sono dei pigmenti neri trovati in corrispondenza di siti neandertaliani che dimostrano che i neandertaliani si dipingevano la pelle di nero. Noi però allo stesso momento eravamo più evoluti e ci dipingevamo anche di rosso. Ne sapevamo più di loro, eravamo noi che importavamo le nuove tendenze. I neandertaliani, un po' come succede nelle località di provincia, importavano dal gruppo dominante alcune tendenze e cercavano di imitarli. I sapiens erano più trendy, diciamo. I sapiens erano molto trendy. Tra 30 e 40 mila anni fa bisognava essere sapiens in Europa oppure non si era nessuno. Un po' su questi temi si parlerà anche a Genova, al Festival della Scienza che è appena iniziato, che è in corso e andrà avanti fino al 4 di novembre, e lei sarà protagonista di una delle conferenze il 30 di ottobre. Mi sembra che parlerà di popoli e lingue, quindi un po' su questo tema. Intorno. Sì, beh, è un tema classico, no, che risale a Darwin e poi al lavoro di Luca Cavallisforza ed altri. Insieme ad un mio collega dell'Università di York, che si chiama Pino Longobardi, stiamo partendo con un progetto di campionamento di tante popolazioni sulla Terra per confrontare appunto la loro lingua e i loro geni. La novità di questo progetto è che fino a qualche tempo fa si riteneva molto difficile confrontare lingue molto diverse, perché le tecniche normali, quelle in cui si confrontano le parole e si vedono se sono imparentate oppure no, secondo i linguisti hanno poca profondità temporale. Dopo un po' di tempo non si riesce più a capire se certe somiglianze siano lì per caso oppure no. L'esempio tipico è il fatto che i cinesi mamma la dicono mamma. Sembra che ci sia una relazione tra noi e loro, invece è probabilmente legata alla facilità di pronunciare queste sillabe. E Pino Longobardi si è inventato un modo per studiare la struttura profonda delle lingue, la grammatica, la sintassi, e confrontarla tra lingue diverse, compito che non è facilissimo. E quindi stiamo per partire, è un progetto di 5 anni, stiamo per partire e vedere cosa salta fuori. Va bene, allora ne parleremo. Grazie mille Barbujani. Grazie Barbujani. Grazie, buonasera. Va bene, allora, uno scienziato di Milano ha scoperto come lavora il famoso pesce arciere. Non è famoso? Vabbè, siete voi che non siete informati. Ascoltate. E ora diamo la parola al pesce arciere. Il pesce arciere, abbiamo parlato di ominidi e di tecnologie, qua si può quasi parlare di una tecnologia che usa un pesce. Esatto. Allora, per i feticisti del genere diciamo che il nome scientifico è Toxotes jaculatrix. E ora entriamo nel dettaglio. Allora, il pesce arciere ha una caratteristica particolare e la si conosce da circa 250 anni. Sì, lui praticamente colpisce le prede, le stordisce con un getto d'acqua ad altissima velocità, come fosse una freccia, insomma. Come fosse un dardo. Adesso però un ricercatore, un fisico milanese, ha scoperto come viene sferrato questo colpo. Allora, intanto ci deve spiegare, intanto, perché un fisico si è occupato del pesce arciere. E allora diamo il benvenuto ad Alberto Vailati. Buonasera. Buonasera. Lei da fisico ha studiato il pesce arciere, com'è possibile? Allora, il motivo è abbastanza semplice. Come tutti i fisici, io tengo della didattica rivolta anche a altri corsi di studio, in questo caso al corso di fisica in scienze naturali, e ovviamente è sempre molto difficile stimolare l'interesse degli studenti, per cui durante questo corso gli faccio degli esempi di fisica applicata al mondo degli animali. Ecco. Uno studente si è appassionato e, sfruttando poi le mie competenze nel campo della fisica dei fluidi, mettendo insieme le due cose, abbiamo provato a intraprendere questo studio. Perché in realtà la spiegazione a questo dardo sferrato dal pesce è ricercabile nell'idrodinamica. Sì, è un effetto che precedentemente era stato ricercato come effetto dovuto a una qualche struttura interna al pesce. Invece noi abbiamo trovato che è legato alle caratteristiche con cui avviene la propagazione di questo getto d'acqua, che portano a avere un'accumulazione dell'energia rilasciata dai muscoli del pesce, accumulazione che ha luogo in una regione di spazio ben precisa, cioè all'estremità del getto, la prima porzione del getto che viene emessa. Quindi il segreto non è nella potenza muscolare, diciamo, del pesce, ma è nel modo in cui usa i muscoli, insomma, per lanciare l'acqua in una certa maniera. Sì, esattamente, un po' come noi esseri umani, alcuni primati, siamo abituati a fare, utilizzando però degli utensili meccanici. In questo caso il pesce ha la capacità di manipolare l'ambiente esterno, che in questo caso ovviamente è l'acqua, e di sfruttare le leggi della fisica dei fluidi per concentrare la sua potenza muscolare ricorrendo a un utensile che però è fatto di acqua a tutti gli effetti. In questo caso l'energia dei muscoli del pesce viene distribuita lungo tutto il getto, ma siccome il getto mentre sulla bocca va sempre più velocemente, quello che succede è che l'acqua che è uscita per ultima riesce a raggiungere quella che è uscita per prima, un po' come se ci fosse una corsa in cui i partecipanti partono, non so, a un minuto di distanza dall'altro, e però il secondo partecipante corre più velocemente del primo, il terzo partecipante corre più velocemente del secondo, e lo raggiunge siano distribuiti, lei si ritroverebbe con un gruppo di persone che corrono tutti insieme, supponendo che non si superino l'un l'altro, come avviene nel caso dell'acqua, a causa delle forze di tensione superficiale. È molto interessante questo aspetto della interdisciplinarità, cioè la fisica che si scopre nelle scienze naturali. Ci sono altri esempi di animali che fanno cose strane che si spiegano attraverso la fisica? Beh, tutto lo studio è partito proprio dalla discussione con gli studenti riguardo alla fisica della lingua del camaleonte, che è stata spiegata solo recentemente negli ultimi 10 anni. Però ce lo deve spiegare adesso un attimo. La lingua del camaleonte è una delle mie più grandi passioni, ecco, per cui sono felicissimo di dirvi due parole. In questo caso quello che succede è che c'è un meccanismo cosiddetto della catapulta, che però ha a che fare con la conformazione della lingua del camaleonte, su come è fatta la lingua del camaleonte. Anche lì si pensava che venisse spinta fuori, proiettata verso un insetto con la pura forza diretta dei muscoli, ma è stato visto che questo non era vero. E andando a vedere meglio come era fatta la struttura, sono state individuate delle fibre di collagene avvolte a elica interno alla lingua del camaleonte, che si comportano come una vera e propria molla che accumula l'energia rilasciata dai muscoli lentamente e poi può essere attivata dal camaleonte, come la molla di un flipper che spara la sua pallina, per rilasciare l'energia dei muscoli molto rapidamente e quindi proiettare la lingua con una fortissima accelerazione. Che interessante, Valati, se tutti i fisici facessero lezione come lei sarebbe veramente una rivoluzione. Va bene, allora grazie davvero, buon lavoro, e allora ci risentiamo per qualche altro racconto. I prossimi animali, insomma. Va bene, grazie a voi, e ovviamente allo studio hanno partecipato altre persone, se permettete. Sì, prego, li ricordi. Ha collaborato con me il dottor Roberto Cerbino, sempre dell'Università di Milano, e uno studente, Luca Zinnato, che è stata la persona che originariamente ha proposto di fare questo studio, appunto stimolato a lezione. Bravi, grazie. E l'articolo è uscito su PLOS ONE. Grazie. Arrivederci. E dei prossimi appuntamenti genovesi parleremo nelle prossime puntate. Per il momento è tutto, ci sentiamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.